personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Allacciatevi le cinture, preparatevi a sognare, a volare e anche a commuovervi, perché oggi vi racconto una storia di bambini, di ragazzini, quelli che ancora giocavano all'aria aperta con uno strumento fondamentale e prezioso, la loro fantasia. Vi racconto una storia nella quale non ci sono gli smartphone, non ci sono i videogiochi, i gruppi su WhatsApp, neanche i cartoni animati in televisione. Anzi, vi racconto una storia di un tempo nel quale non esisteva neanche la televisione. Era il tempo dei giochi più belli, quelli che magari noi adulti guardiamo con sufficienza, ma se ci ricordiamo che cosa eravamo quando eravamo bambini, possiamo capire quanto fossero importanti quelle regole speciali, quelle regole di guerre con tradimenti, atti di coraggio, di insubordinazione, di vigliaccheria, di simboli, di bandiere, di valori. Sono giochi in cui uno spazio all'aperto può diventare qualsiasi cosa, basta immaginarlo. Sono momenti in cui delle cataste di legno possono trasformarsi in fortini, palle di sabbia diventano armi letali per combattere epiche battaglie. Il protagonista di questa storia è un ragazzino ungherese, dall'aspetto mingherlino e fragile. Si chiama Erno, in italiano sarebbe Ernesto, il cognome è Nemecek. Siamo a Budapest nel 1889. L'Ungheria è ancora una parte dell'impero austro-ungarico e, come molte grandi città europee, si sta trasformando perché i campi incolti a ridosso del centro abitato stanno scomparendo, lasciano pian piano il posto ai grandi palazzoni e tolgono spazi di gioco ai ragazzi come Erno Nemecek. Ha 11 anni, lui è figlio di un sarto, Andrea, di una casalinga, è una famiglia umile, molto povera. Nemecek, e d'ora in poi lo chiameremo così, Nemecek ha preso fisicamente dalla madre, è una donna bionda, gracile, anche lui è mingherlino, ha i capelli chiari e sembra più piccolo della sua età. Entra nella nostra storia quando due bulli, i fratelli Pastor, gli rubano le biglie con le quali lui sta giocando con degli amici. Sembra una cosa da poco, ma per un bambino non lo è. E non è un furto come gli altri, è un'azione precisa, codificata. È l'inizio delle ostilità e tra i ragazzi di Budapest si chiama Einstein. Conviene sapere che l'Einstand, nel gergo scolaresco di Budapest, serve a indicare l'operazione sommariamente illegittima che effettua un ragazzo più forte per impadronirsi delle palline, dei pennini o delle figurine con cui dei ragazzi più piccoli o comunque non in grado di opporglisi con altrettanta forza sono intenti a giocare. Nell'annunciare l'Einstand, il ragazzo più forte dichiara che considera gli oggetti come suo bottino e che userà la forza contro coloro che oseranno resistergli. Così pertanto l'Einstand è un vero e proprio ultimatum che annuncia, in forma concisa ma assai eloquente, lo stato di assedio, la legge del taglione e l'avvento del regno della pirateria. Quindi iniziamo parlando di bullismo. Per secoli il bullismo è avvenuto tra i ragazzi, era una sorta di battesimo del fuoco. Io ho subito il bullismo, non c'era nessuno a difendermi, dovevo cavarmela e comunque col senno di poi trovo che il bullismo dei bambini sia molto meno grave del bullismo fatto nei consigli d'amministrazione quando diventi adulto. Comunque i fratelli Pastor, gli autori di questa azione, fanno paura, sono grossi fisicamente, corrono veloce, hanno un aspetto cupo, non ridono mai, camminano con le mani in tasca e lo sguardo basso. Fanno parte di una banda, le Camicie Rosse, a capo della quale c'è Ferry Hatch, che ha vietato ai suoi soldati di prendersela con i più piccoli, ma i Pastor sono fatti così e se ne fregano. Questa è una disavventura che per una volta permette a Nemecek di conquistare l'attenzione dei suoi compagni di gioco, lui che di solito è sempre ai margini. Sentendosi il centro dell'interesse generale, cosa che a lui non capitava che molto raramente, Nemecek provò una viva emozione. Nei giochi dei compagni, infatti, il biondino era un'entità trascurabile, come il numero uno nelle divisioni o nelle moltiplicazioni. Nessuno si curava di lui. Era un bimbetto gracile, mingherlino, dall'aspetto insignificante. La sua inferiorità fisica sembrava peraltro predestinarlo ad un ruolo di eterno gregario, ma questa volta era proprio al centro dell'attenzione generale. Tutti pendevano dalle sue labbra. Adesso bisogna sapere una cosa: i Pastor e le Camicie Rosse sono i nemici giurati del gruppo a cui appartiene Erno Nemecek. Questo gruppo si chiama i Ragazzi della Via Pal, perché proprio in Via Pal hanno la loro base, un vecchio deposito di legname, un labirinto di cataste alte 3 metri con un ampio spazio libero. È un posto prezioso, perfetto per giocare, e infatti le Camicie Rosse di Azze e soci lo vorrebbero quel posto. Loro stanno all'orto botanico, la loro base è una zona di ruderi su un'isola al centro del laghetto dell'orto. È un bel posto anche quello, però con meno spazio, dove non si può neanche giocare a pallone. L'abbiamo detto, sono anni di grandi trasformazioni per le capitali europee. Budapest non fa eccezione. Quel cambiamento lo racconta il più famoso scrittore ungherese, Ferenc Molnár, che in quegli anni era un bambino. Se tu, caro lettore, sei un ragazzo di campagna, sei fortunato. Ti basta fare un passo per trovarti in spazi senza confini, sotto l'immensa volta del cielo. Abituato a guardare orizzonti lontani, non puoi capire cosa vuol dire stare rinchiuso tra i muri grigi di una città. Non puoi nemmeno comprendere cosa significhi per un ragazzo della capitale un piccolo prato abbandonato. Per lui è il luogo dove si gioca, è la fuga dalla realtà, è il regno della libertà. Anche il vecchio deposito di legname sarebbe uno di quei posti abbandonati di cui parla Molnár, se non fosse per la presenza del guardiano notturno, lo slovacco Jano, del suo grosso cane nero Ettore, che però sono inoffensivi perché Jano di giorno dorme, il cane non è pericoloso, ha legato con i bambini. Insomma, la legnaia di Via Pala è il posto perfetto per Nemecek e per i suoi amici. Si poteva trovare un migliore campo da gioco? I ragazzi non potevano neanche concepire che ce ne fosse uno più bello. Per loro questo era l'ideale. Il suolo liscio sostituiva meravigliosamente le praterie americane quando giocavano ai pelirosse. Quanto alle cataste di legno, con un po' di buona volontà, con un briciolo di immaginazione, potevano diventare ogni cosa. Città, foreste, montagne rocciose, case, fortezze, a seconda delle circostanze. E intorno al deposito di legna di Via Pal sta per scoppiare una guerra, uno scontro serissimo che avrà conseguenze drammatiche, una vicenda nella quale il nostro Nemecek svolgerà un ruolo da protagonista. Sulle ali di carta. La banda di ragazzi di cui fa parte il nostro protagonista di oggi, Erno Nemecek, che è organizzata come un piccolo esercito con le sue gerarchie. C'è un capo di cui vi parlerò, ci sono molti ufficiali e c'è un solo soldato semplice, è proprio Nemecek. Oggi sarebbe uno stegista. È l'unico a doversi mettere sull'attenti, l'unico a cui dare ordini, incarichi, spesso l'unico a finire sul libro nero della banda dei ragazzi della Via Pal, dove vengono segnate infrazioni al regolamento, punizioni. Lui aspira a una promozione, che però non arriva nonostante il suo impegno. Del resto, se lui diventasse ufficiale, resterebbe un esercito di soli ufficiali senza soldati semplici. E in quella primavera di fine 800, a pochi giorni dal furto delle biglie da parte dei fratelli Pastor, accade un altro evento importante per la nostra storia. Il capo delle Camicie Rosse, Feri Hatch, riesce a introdursi nel deposito della Via Pal e a rubare la bandiera della banda avversaria. È proprio Nemecek che arriva per primo al campo e lo scopre nell'atto di sottrarre il vessillo cucito dalla sorella del tenente Xele, altro membro del gruppo. Un incontro faccia a faccia da far tremare le gambe al piccolo Nemecek. Lascia subito la nostra bandiera. Adesso mi dai anche gli ordini. Ma guarda un po'. Tieni, vieni a prenderla. Niente paura, qua la mano. Avanti. Coraggio, Nemecek, niente paura. Qua la mano. Su, ti aiuto io. Non la vuoi? Allora diglielo al tuo bel capitano che un esercito senza bandiera è un esercito di vinti. Il campo sarà nostro. Hatch riesce a scappare. Tocca a Nemecek dare la notizia ai suoi compagni e al capo, Janos Boka. su Boca bisogna spendere qualche parola, perché ha solo 3 anni più di Erno, però è il vero leader carismatico. Boca aveva 14 anni. Dal viso però non li dimostrava, ma bastava che aprisse bocca per stimarlo di qualche anno più vecchio. Infatti aveva un'inflessione vocale grave, dolce e profonda. Tutto quello che diceva era come la sua voce, ben ponderato e giusto. Raramente si trovava ad aver detto qualche sciocchezza e non aveva nessuna inclinazione per gli scherzi degli scolari. Per finire, insomma, egli sembrava un ragazzo intelligente e tutto portava a credere che, qualora non fosse riuscito a salire tanto in alto nella scala sociale, sarebbe diventato comunque un uomo onesto, ligio ai propri doveri e generoso verso il prossimo. Vedete, com'è evidente che già nei bambini si creano le dinamiche degli adulti. Il leader deve esserci, e c'è. Boca ha l'autorevolezza per esserlo. Una lezione anche per il mondo adulto. Come ha fatto il capo delle camicie rosse a entrare nel campo quando una regola precisa per i ragazzi della Via Pale, i ragazzi di Boca, prescrive di chiudere sempre la palizzata dell'ingresso? Ve l'avevo detto, nella storia di Nemeček c'è anche il tradimento. Dovete sapere che Boca è stato eletto capo del gruppo in una votazione in cui c'era un altro ragazzo che aspirava a quella carica, che però aveva preso solo 3 voti. Si chiama Desto Jereb, tenente, avversario interno di Boca, diciamo il D'Alema in quel momento. Da cosa nasce questo tradimento? Da una delusione, da una debolezza di carattere, dall'incapacità di accettare una sconfitta. A Jereb quella sconfitta nell'elezione a comandante non è andata giù e dà vita a una sotterranea opposizione interna al partito, insomma, per seguire la similitudine di prima. Comunque, il suo tradimento nei giorni successivi diventerà una realtà concreta e provata. Intanto Boca decide di rispondere a quell'affronto al furto della bandiera con una prova di coraggio. Con 2 volontari decide di entrare nell'orto botanico per lasciare un cartello nel cuore del covo delle camicie rosse. Il cartello recita: i ragazzi della Via Pal sono stati qui. Il soldato semplice Nemeček, il piccolo e fragile Erno, è il primo a offrirsi volontario. Lui, Boca e Xonachos si lanciano nell'azione. È sera quando i 3 entrano nell'orto botanico scavalcando il muro di cinta. È una missione molto rischiosa, non solo non devono farsi scoprire dai nemici, ma anche evitare di essere intercettati dal guardiano del giardino pubblico. In più bisogna attraversare il laghetto che difende il quartier generale delle camicie rosse, perché il ponte è controllato dalle guardie avversarie. Trovano una barca, ma nel tentativo di salire Nemeček cade in acqua. Nemeček! Accidenti a te! Hai bevuto abbastanza? Dai, sali su. Dai! Non ho bevuto per niente. È primavera, ma la serata è fredda, è l'acqua molto fredda. Erno e Nemeček, bagnato fradicio, prosegue la missione coi compagni. La banda delle camicie rosse è riunita al gran completo. I 3 riescono a figgere il cartello a pochi metri dal punto di raduno e sono vicini ai nemici, e si accorgono che tra loro c'è anche qualcuno che non dovrebbe essere lì. C'è il traditore. Ehi! Lo vedete anche voi? Laggiù, quello lì, Trace Vendauer. Sì, lo vedo. È proprio lui, Jereb. Jereb, non ci credo che lui, fa vedere. Sta giù. Ecco perché non era con noi oggi. È venuto qui per tradirci, traditore. Sì, ma non deve sapere che l'abbiamo scoperto, è un ordine. Ma perché? Dobbiamo prima capire perché ha tradito. Per invidia, vorrebbe essere al tuo posto, ecco perché. Giurate di mantenere il silenzio. Jonakos, Nemeček, giurate. Lo giuriamo. Sconvolti dalla scoperta, i 3 ragazzini si allontanano, ma qualcuno si è accorto del cartello, lancia l'allarme e parte una caccia all'uomo serrata. I tre ragazzi cercano di raggiungere l'uscita, le camicie rosse sono veloci, Nemecek, Bok e Sonachos sono costretti a rifugiarsi in una serra e Nemecek non trova riparo dietro le piante, è costretto a un secondo bagno fuori programma. Si nasconde nella vasca dei pesci rossi. Il pericolo passa, i tre riescono finalmente a guadagnare l'uscita, Nemecek grondante d'acqua può raggiungere casa, ma tossisce, sternutisce, la missione gli è costata un brutto raffreddamento, un prezzo alto, molto più alto di quello che state immaginando. Sulle ali di carta. Stiamo raccontando la storia del ragazzino ungherese Erno Nemecek nella Budapest di fine 800. È un periodo di grande trasformazione per le capitali europee, gli spazi liberi, i campi di periferia delle città vengono sottratti ai giochi per far sorgere nuovi palazzoni e Nemecek fa parte di un gruppo di ragazzi delle scuole medie che ha la propria base di gioco nel vecchio deposito di legname della via Pal. Quella legnaia è nel mirino di un gruppo di ragazzi avversari, le camicie rosse dell'orto botanico vogliono prendersela perché lì c'è tanto spazio libero e si può giocare a pallone. Vi ho già raccontato come Nemecek ha portato a termine assieme al capo Bok e al tenente Sonachos una missione rischiosa, entrare nel covo delle camicie rosse, affiggere un cartello di scherno, scappare prima di essere scoperti dai nemici nascosti a pochi metri. Hanno anche scoperto il tradimento di un loro compagno perché hanno visto il raduno degli avversari e lì hanno visto Jereb, quello che loro pensavano fosse un amico. L'azione dimostrativa ha successo, ma Nemecek nel compierla finisce due volte in acqua e i bagni fuori programma insieme al freddo della serata gli provocano quello che sembra solo un forte raffreddore. Adesso c'è un'altra cosa che bisogna sapere. All'interno del gruppo della Via Pal c'è un'altra organizzazione, si chiama Società dello Stucco, di cui fa parte anche Nemecek. Come gli altri, raccoglie lo stucco usato per bloccare i vetri delle finestre, stucco che va masticato a turno dai membri della società per mantenerlo morbido. All'indomani della rischiosa missione all'orto botanico, a scuola un professore scopre l'esistenza del gruppo, convoca tutti i membri e acquisisce il prezioso tesoro sociale, è una palla di stucco grande come un'arancia, e vieta a tutti di perdere tempo con questo gioco che da adulto ritiene stupido. La società dello stucco è da considerarsi sciolta. E con effetto immediato. In questa classe e in tutta la scuola non voglio più sentire parlare di società segrete. Nel pomeriggio i ragazzi decidono di tenere una riunione nel deposito di legname per trasformare la società dello stucco in un'organizzazione segreta. Mentre discutono, Nemecek, attenzione, nota Jereb a girarsi furtivo vicino al capanno dove vive il custode. Iano scopre che Jereb ha corrotto il guardiano. Gli ha promesso soldi e sigari se caccerà i ragazzi della via Pal per far occupare il campo alle camicie rosse. Nemecek vorrebbe correre a casa di Bocca per avvisarlo, ma gli altri membri della società dello stucco lo fermano per farlo giurare come segretario. Lui non li ascolta e scappa via dal campo perché è più importante avvisare il capo, avvisare Bocca. E questa viene presa come un'insubordinazione, tanto più che al soldato semplice Nemecek era stato ordinato di rimanere fermo sull'attenti. Insomma, per tutti, lui è scappato per paura. Viene presa una decisione molto grave. Nemecek viene sospeso dalle funzioni di segretario della società dello stucco, viene espulso e segnato nel registro dell'associazione come traditore vigliacco, con il nome e il cognome scritti in minuscolo, il Dreyfus della via Pal. La salute di Nemecek comincia a peggiorare, la tosse diventa persistente, lo lascia senza fiato. Quelle ore al freddo con addosso i vestiti bagnati hanno minato il suo fisico gracile. Ma lui è ben diverso dal suo aspetto, è coraggioso nel senso più vero del termine e di fronte a tutte le sue paure lui le affronta e si spinge più in là, lo fa ancora una volta, esce di nascosto di casa dove dovrebbe stare a letto per cercare di guarire, da solo va all'orto botanico, vuole scoprire i piani d'attacco delle camicie rosse, nascosto su un albero ascolta una discussione tra il traditore Jereb e il capo dei nemici, Hatch. Jereb sta offrendo su un piatto d'argento la vittoria alle camicie rosse senza nemmeno combattere. Gli racconta di come ha corrotto il guardiano per cacciare la banda di Boca dalla legnaia. Ma Hatch è un uomo, un bambino d'onore. Rifiuta sdegnato perché anche lui ha un codice morale e non ha intenzione di agire da vigliacco. Vuole il deposito, ma lo conquisterà sul campo con una guerra regolare. Jereb rimane interdetto, ma continua a fare lo spavaldo. I tuoi compagni hanno qualche sospetto che sei passato dalla nostra parte? E poi anche se ce l'hanno, nessuno oserà aprire bocca. Hanno tutti paura di me. Traditore! Nemecek! Sì, proprio io! Soldato semplice Nemecek! E ho sentito quello che avete detto nel vostro consiglio di guerra! Buster, prendetelo! Potete farmi quello che volete! Tanto non mi fate paura! Non ho nessuna paura di Garen! Non ho nessuna paura di voi! Potevi fuggire, perché non l'hai fatto? I ragazzi della Via Pal non scappano e non hanno paura né di te né dei venduti come Garen! Hai coraggio, Nemecek! Diventa dei nostri! La risposta è no! Fa niente. Non prego nessuno. Se non vuoi venire con noi, pazienza. Che ne facciamo, capitano? È troppo piccolo per picchiarlo. Facciamogli provare piuttosto l'acqua dello stagno. Nemecek subisce la punizione senza batter ciglio. Hatch, che è un capo di saldi principi come Boca del resto, ordina il presentatarm ai suoi quando il piccolo si allontana. Ha guadagnato il rispetto dei nemici, ma questo terzo bagno con i vestiti contribuisce a aggravare ancora di più le sue condizioni di salute, che erano già molto precarie. Ormai la guerra tra le due bande è decisa, Boca e gli altri organizzano le difese del campo. Nemecek, che ha raccontato a Boca i piani d'attacco delle camicie rosse, non si dà pace del fatto di essere stato dichiarato vigliacco e traditore dai membri della società dello stucco, e nessuno sa che negli ultimi giorni il suo comportamento è stato esattamente il contrario, perché ha mostrato coraggio e lealtà agli ordini del capo. E proprio mentre il campo è nel pieno della preparazione di bombe, di sabbie, di trincee, e Jereb si rifà vivo, si presenta a Boca, chiede di essere perdonato, ovviamente è tardi, il gruppo lo respinge e poco dopo in via Palla arriva addirittura il padre di Jereb, che vuole sapere se è vero che il figlio è stato cacciato perché ha tradito. E qui tutto il gruppo, messo in difficoltà dall'arrivo di un adulto, fa una brutta cosa, perché tutti indicano Nemecek e scaricano su di lui la responsabilità di fronte al padre di Jereb. E lui, che è già febbricitante, sempre più scosso dagli attacchi di tosse, nasconde la verità, nega il tradimento di Jereb, prende su di sé la sfuriata del padre, viene portato a casa a braccia personalmente dal suo capo, da Boca. Nemecek ormai ha una brutta polmonite, siamo alla fine dell'Ottocento, gli antibiotici arriveranno solo 40 anni dopo, è una malattia veramente grave. Poi Nemecek è già fragile di costituzione, è in casa, è a letto, il suo gesto altruistico ha colpito Jereb, sempre in bilico, insomma, tra l'infamia e la coscienza che rimorde. Stavolta ha scritto una lettera a Boca per rivelare i piani di battaglia delle camicie rosse. Mi rendo perfettamente conto della gravità della mia colpa, specialmente ora che ho saputo come avete agito con mio padre e soprattutto come ha agito Nemecek, che ha addirittura negato il mio tradimento. Mio padre era così contento e orgoglioso che per premiarmi mi ha regalato L'arcipelago in fiamme di Giulio Verne, un libro che desideravo da tanto tempo. Ancora prima di leggerlo l'ho portato in regalo a Nemecek. Jereb è perdonato, rientra nei ranghi della Via Pal, degradato a soldato semplice. La battaglia è alle porte, nel campo è tutto pronto per respingere l'attacco e i nemici arrivano, arrivano le camicie rosse. Chorakos, all'attacco! Liberiamo i prigionieri, fuori, tutti fuori! Non potete infrangere le regole, respingiamoli! All'inizio le truppe di Boca, i ragazzi della Via Pal, sembrano avere la meglio, riescono anche a catturare alcuni prigionieri e tra questi anche i temibili fratelli Pastor. È uno scontro duro, con bastoni usati come spade, bombe di sabbia lanciate dalle cataste di legno. In pochi minuti però parte la riscossa delle camicie rosse, guidate da Ferry Hatch in persona. E gli esiti della battaglia si capovolgono, le camicie rosse prendono il sopravvento. Ace sta per dare l'assalto finale per liberare i compagni prigionieri, ma accade l'impensabile. Si blocca tutto all'improvviso. Di fronte a lui, tremante per la febbre, c'è Nemecek. Alt, fermati, gli urla. E poi, quasi impossibile da credere, afferra Ace per la vita, lo solleva e lo atterra secondo le regole della battaglia. È l'ultimo disperato colpo d'ala di un bambino che rivuole il suo onore. Un attimo dopo Nemecek sviene. I suoi amici gli si fanno intorno, le camicie rosse ormai sconfitte assistono alla scena. Nemecek si risveglia, chiede dell'esito della battaglia. Boca gli racconta che senza di lui avrebbero perso. Per i suoi meriti in battaglia il comandante lo promuove sul campo al grado di capitano, ma il gioco è finito. Nemecek deve tornare in quel letto dal quale è scappato per partecipare alla battaglia. Le sue condizioni sono gravissime. Mentre il dottore lo visita, tutti i ragazzi attendono notizie sotto casa sua in via Rakos, soprattutto i compagni della società dello stucco che vogliono riparare al torto di averlo definito vigliacco e traditore, vogliono cancellare il nome di Nemecek scritto in minuscolo e riscriverlo tutto con le lettere maiuscole. Ormai per il piccolo Nemecek non c'è più niente da fare, delira e nel suo delirio rivive la battaglia, urla ordine ai compagni, imita il suono di una tromba. E nell'altra stanza il padre sta confezionando un vestito per un cliente così esigente da non fermarsi nemmeno di fronte al dolore di una famiglia. Questo è il tocco dickensiano di Ferenc Molnar. È la famiglia che assiste al bambino vicino alla morte e il ricco che vuole il suo vestito. Nemecek sembra prendere sonno, il suo respiro si fa debole, poi si interrompe. Il piccolo e coraggioso soldato Nemecek è morto. Siamo di sera, le strade sono vuote, Boca entra nel vecchio deposito di legname, cammina come un automa, guarda i segni della battaglia sul terreno proprio dove Nemecek ha atterrato Hatch con l'ultimo gesto, l'ultimo colpo d'ala della sua vita. Ai margini del recinto ci sono delle persone. Il custode gli rivela che sono degli architetti. Dal giorno successivo cominceranno a sgombrare la legnaia per costruire un palazzo. Il deposito così duramente difeso non sarà più la base dei ragazzi della Via Pal. A Boca parve che il mondo gli girasse tutto attorno. Ora sì che le lacrime vennero e s'avviò in fretta. Ma poi corse a precipizio verso la porticina. Fuggiva da quel pezzo di terra infedele che essi avevano difeso con tante sofferenze, con tanto eroismo, e che ora li abbandonava, li tradiva, per farsi costruire sul dorso un casermone d'affitto. E al grande dolore che gli stringeva tanto e tanto il cuore, si mescolò una piccolissima goccia di conforto. Ecco, anche se il povero Nemecek non era vissuto tanto per ricevere le scuse della delegazione dello stucco, almeno se n'era andato senza sapere che gli veniva tolta la terra per la quale aveva dato la vita. E io ci sono andato in via Palma, è un'esperienza che non vi consiglio perché ovviamente è una normalissima via di casermoni e invece è stata teatro di una grande storia, una storia di bambini forse, ma soprattutto una storia di onore, perché l'onore è la più grande qualità che noi possiamo e dobbiamo difendere anche quando abbiamo 10 anni come il nostro piccolo Nemeček. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno dato un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno lasciato un segno. Se volete ricordarci qualcuno che pensate sia degno di una menzione da parte nostra, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina oppure venite a trovarci, a trovarmi sui miei, sui nostri social. Se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani.